Benvenuti. Questo è il riassunto del rapporto intelligenza scontata. Un'analisi critica dell'impatto dell'intelligenza artificiale generativa, IAG, nel mondo dell'istruzione. Il titolo evidenzia una doppia e profonda problematica. Da un lato, l'entusiasmo per l'IA rischia di scontare, ovvero, di svalutare, il pensiero critico, la creatività e lo sforzo cognitivo che sono al cuore dell'apprendimento umano. Dall'altro, la tecnologia stessa viene adottata in modo acritico, dando, per scontati, i suoi enormi costi nascosti, i suoi pregiudizi intrinseci e le complesse strutture di potere che la sostengono. Il rapporto evidenzia che, sebbene l'IA mostri un impatto quantitativo positivo sull'apprendimento, questo beneficio non è uniforme. È massimo quando lo strumento viene usato per un dialogo interattivo, simulando un tutoraggio personalizzato. Al contrario, la sua efficacia diminuisce drasticamente nei grandi gruppi, a riprova del fatto che senza un'attenta integrazione pedagogica e una cruciale supervisione umana, la tecnologia da sola non basta. Le controversie sono profonde e interconnesse. In primo luogo, l'IA scatena una crisi di integrità accademica, rendendo obsoleto il concetto tradizionale di plagio, mentre i software sviluppati per rilevarla si dimostrano inaffidabili e spesso discriminatori. In secondo luogo, agisce come un potente acceleratore di disuguaglianze, amplificando i bias sociali e culturali presenti nei suoi dati di addestramento e allargando il divario digitale tra chi può permettersi strumenti premium e chi no. A questo si aggiunge il costo cognitivo, la costante disponibilità di risposte immediate favorisce la dipendenza tecnologica e lo scarico cognitivo, rischiando di erodere l'autonomia dello studente e di promuovere un apprendimento superficiale. Infine, ci sono i costi nascosti, spesso ignorati, le massicce violazioni della privacy e del copyright che alimentano i modelli e un impatto ambientale insostenibile, legato all'enorme consumo di energia e acqua dei data center. Di fronte a questo scenario complesso, emergono le prime risposte istituzionali. A livello normativo, spicca l'AI Act europeo, che tenta di regolare il settore con un approccio basato sul rischio. A livello professionale, si assiste a una profonda riconfigurazione del ruolo docente, combattuto tra la necessità di sviluppare nuove competenze critiche e il rischio di una deprofessionalizzazione guidata da piattaforme automatizzate. In conclusione, il rapporto rifiuta categoricamente il tecnosoluzionismo, ovvero l'idea che la tecnologia possa risolvere problemi pedagogici complessi. L'integrazione dell'IA non è un destino, ma una scelta che richiede consapevolezza. La vera sfida non è adattarsi, ma coltivare un'alfabetizzazione critica all'IA, che insegni a studenti ed educatori a interrogare i sistemi stessi, chi li ha costruiti, con quali dati e per quali scopi. Solo così sarà possibile piegare la tecnologia ai valori irrinunciabili di un'educazione equa, profonda e autenticamente umanocentrica.